Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se un educatore, un insegnante, un preside ritiene che il problema sia Gesù Bambino, la Madonna e San Giuseppe, ha sbagliato mestiere e dovrebbe essere licenziato in tronco domani mattina. Durissimo, Salvini, leader della Lega, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ritorna sulla polemica di cui avevamo già parlato la scorsa settimana relativa a questa scelta, a questa decisione del preside di un istituto, di una scuola di Rozzano nel Milanese, di non far fare dei canti religiosi legati alla religione cristiana, tipo tu scendi dalle stelle. La polemica non si è placata, è andata avanti in questi giorni. Salvini, insieme anche alla esponente di Forza Italia Gelmini e ad altri, oggi sono andati davanti alla scuola di Rozzano a regalare alcuni piccoli presepi. Nel frattempo è successa anche una cosa a Sassari, una scuola di Sassari, con l'arcivescovo che voleva essere lì presente nei prossimi giorni in vista del Natale con i piccoli allievi, e il consiglio d'istituto ha detto: beh, no, grazie, se si vuole vengono i bambini cattolici lì in chiesa, però qui forse è meglio di no, perché anche questa è una scuola multietnica. E quindi, diciamo, cresce questa polemica in vista del Natale, su chi dice: no, noi anzi dobbiamo rafforzare la nostra identità, le nostre origini cristiano-cattoliche, eccetera, eccetera. Chi dice: no, le istituzioni, le scuole devono essere laiche, poi ognuno cerca di vivere come vuole la propria religione. Insomma, ne parleremo con un esponente della Lega e con un esponente invece della CGIL, che sono stati i primi forse a esporsi, diciamo, un po' più così chiaramente, esplicitamente sul fatto, sul dare ragione, diciamo, a questo preside. Come già ricordano alcune ascoltatrici e ascoltatori, già sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire sempre senza indugio e sulla quale potete scrivere i vostri commenti, rammentano che in realtà questo preside non ha annullato una recita di Natale, ma detto di no ad alcune mamme che volevano insegnare dei canti religiosi ai bambini nella scuola. Vi ricordo i vostri commenti anche al 349-238-6666, quindi continuiamo pure su questo argomento con le vostre opinioni. Poi parleremo anche naturalmente di altre cose, del clima, visto che c'è questa importantissima conferenza internazionale, che se non si chiude lì un accordo, dove si dovrà mai chiudere? Insomma, siamo vicini, dicono molti leader mondiali, alla catastrofe sul clima. E a questo proposito parleremo anche del triste record dell'Italia, che è il record in Europa per le morti premature dovute all'inquinamento. Insomma, tanti temi anche questa sera. Voi avete due modi per intervenire, vi dicevo, pagina Facebook di Effetto Notte e i messaggi al 349-238-6666. Vediamo che giornata è stata. La conferenza delle Nazioni Unite sul clima, il leader del mondo a Parigi, Obama dice: possiamo cambiare il futuro qui e adesso, e Renzi sottolinea: l'Italia fa la sua parte. Inquinamento, all'Italia il record europeo di morti premature per lo smog, e per l'amianto è emergenza nazionale, 85 anni per ripulire il bel paese. Il faccia a faccia tra Obama e Putin, i due leader si dicono d'accordo sull'avvio di una soluzione politica in Siria. Sempre alta la tensione tra Russia e Turchia, Putin accusa Ankara, dice: ha colpito il jet per il traffico illegale di petrolio dall'ISIS alla Turchia. Erdogan replica: se è vero sono pronto a dimettermi. Vatilix 2, il Papa di ritorno dall'Africa, dice: una vicenda che non mi ha tolto il sonno, ma è stato un errore scegliere Balda e Sciauchi. La polemica sul Natale, ancora tensione a Rozzano, e Salvini dona un presepe, il preside spiega: storia fraintesa. La dottoressa uccisa in Kenya, la polizia è stato anche il mandante, quattro emanette, tra loro anche i lavoratori della casa. La rivoluzione del nuovo calendario Pirelli, da Yoko Ono a Patti Smith, donne vere, età media 50 anni, segni particolari il successo. Calcio per la Serie A, Sassuolo-Fiorentina 1-1, e poi il big match Napoli-Inter. E già chiede la linea Dario Ricci. Evidentemente c'è stato un gol o da una parte o dall'altra, Dario? Sì, dalla parte del Napoli, cara Roberta, perché a San Paolo siamo appena al terzo minuto di gioco, ma ne è bastato uno di minuto a Gonzalo Higuaín, il capocannoniere della Serie A, per siglare l'1-0 per il Napoli. C'è stata l'incursione di Callejon, che ha deviato il pallone con il petto, quasi con la spalla, forse addirittura con il braccio. Il pallone è passato, ha superato il difensore nerazzurro Nagatomo, è arrivata Higuaín, che ha controllato di destro e poi sempre di destro ha calciato una bordata dall'altezza del dischetto del rigore, imparabile per Handanovic. Quindi quarto minuto di gioco al San Paolo, Napoli già in vantaggio per 1-0 sull'Inter, decide ancora, finora Gonzalo Higuain. Grazie Dario Ricci, poi ci aggiorniamo dopo sul risultato. Intanto adesso andiamo subito a COP21, la conferenza internazionale sul clima delle Nazioni Unite, che è iniziata oggi a Parigi. Sono arrivati stamattina capi di Stato e di Governo di 147 paesi, accolti dal presidente francese François Hollande e dal segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Alla foto di famiglia che ha preceduto le dichiarazioni di intenti dei leader mancava solo il presidente Vladimir Putin, che è arrivato in ritardo, non si capisce se per motivi strategici oppure no, per evitare Erdogan eccetera, il presidente ucraino. Comunque i paesi presenti alla COP21 stanno ragionando su quali azioni a livello governativo mettere in campo per arrestare il danno provocato dalle emissioni di gas serra. Intanto ci sono state dichiarazioni importanti di Obama, di Ban Ki-moon, anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha sottolineato: ora è il tempo di agire sul cambiamento climatico, siamo chiamati a disegnare il futuro del mondo. Poi ne parleremo dopo collegandoci direttamente con Parigi, così come ci occuperemo, vi ho detto, anche di questo record dell'Italia per morti premature dovute all'inquinamento. Resta intanto il gelo tra Putin e Erdogan a 6 giorni dall'abbattimento del bombardiere russo da parte di F-16 turchi al confine con la Siria. Tra i molti faccia a faccia però anche quello tra Obama e Putin. La Turchia non si scuserà con la Russia perché abbiamo fatto solo il nostro dovere, lo ha detto il premier turco Davutoglu dopo aver incontrato a Bruxelles alla sede NATO il segretario generale Jens Stoltenberg. Il primo ministro turco si è detto comunque pronto a discutere con Mosca per evitare incidenti futuri. Con queste premesse non sorprende che sia escluso un incontro tra Vladimir Putin e il suo omologo turco Erdogan, entrambi a Parigi per il vertice sul clima. Il leader del Cremlino, nella capitale francese, ha invece parlato a porte chiuse con il presidente degli Stati Uniti. Barack Obama ha espresso a Putin il suo rammarico per l'abbattimento del jet al confine siriano e poi è tornato a ribadire la necessità che Bashar al-Assad lasci il potere in Siria e quella che Mosca indirizzi i suoi raid aerei contro l'ISIS e non contro ribelli moderati. Un incontro, stando a quanto comunicato dal portavoce del Cremlino Peskov, nel quale i due leader si sono espressi a favore di un avanzamento verso l'avvio della soluzione politica in Siria. Intanto Turchia e Francia hanno concluso un accordo militare che autorizza i jet francesi a sorvolare lo spazio aereo di Ankara e la portaerei Charles de Gaulle a ricevere il supporto logistico dal porto turco di Tasuku, mentre per la prima volta i jet russi sono partiti per la Siria armati non solo di bombe ma anche di missili aria-aria per la loro difesa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a conferma di quanto si è teso, continua a essere teso il clima tra Putin e Erdogan, il presidente turco, è arrivata diciamo negli ultimi minuti, nell'ultima mezz'ora, un'accusa forte da parte di Putin. In realtà già si ventilava nei giorni scorsi, ha detto la Russia ha motivo di sospettare che il jet russo sia stato abbattuto per assicurare forniture illegali di petrolio dall'ISIS alla Turchia, cioè ci sarebbe secondo Putin un traffico illegale di petrolio dall'ISIS verso la Turchia. Il presidente turco Erdogan ha detto di essere pronto a dimettersi se le dichiarazioni di Putin fossero vere. E intanto il presidente Barack Obama si è appreso, domani incontrerà il presidente Erdogan a margine sempre del vertice sul clima. E poi in Siria dovrebbe essere lì il principale ricercato per gli attentati a Parigi. Inutile quindi sarebbe la caccia all'uomo in Europa. Ora anche l'intelligence francese lo conferma. Salah Abdeslam sarebbe già in Siria. L'ultimo membro del gruppo di fuoco di Parigi sarebbe riuscito a fuggire dall'Europa. La sua rete internazionale di coperture e amicizie gli avrebbe quindi permesso di prendere treni, auto ed aerei, dimostrando di essere più efficace delle polizie di mezzo mondo. E se tutti concordano che il terrorismo è una delle sfide prioritarie del secolo, ora potrebbe davvero avere un'accelerazione la proposta di un'agenzia comune di intelligence bocciata nell'ultimo vertice di novembre. È il premier belga Charles Michel a rilanciare su una CIA europea per condividere le informazioni e prevenire gli attacchi, perché più il tempo passa e più si scopre quanto già si sapesse degli attentatori di Parigi, compreso il fatto che uno dei terroristi del Bataclan, Semi Amimur, si era addestrato in un poligono di ex poliziotti della capitale. Molto hanno da farsi perdonare le intelligence francesi e belga che continuano a setacciare le strade del quartiere Molenbeek di Bruxelles anche per false segnalazioni di un burlone che ora potrebbe pagare tutti i costi dell'operazione, proprio come chi a Bologna ha dato un falso allarme bomba in una discoteca. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Nel frattempo il Papa è tornato a Roma, atterrato nel pomeriggio, ha parlato come sempre nel viaggio di ritorno in aereo, ha tra le tante cose anche risposto ai giornalisti su Vatileaks 2 dicendo: credo che è stato fatto un errore scegliendo Balda e Chauchi, i due che sarebbero accusati di essere i Corvi, di queste ulteriori rivelazioni, i documenti segreti del Vaticano, dice lui è stato scelto perché era segretario della prefettura e lui poi ha scelto una donna, ha detto il Papa. È una vicenda che comunque non mi ha tolto il sonno. E questa mattina l'ultima tappa il Papa ha fatto alla moschea di Kondoku in Repubblica Centrafricana. La visita alla moschea del chilometro 5, nel quartiere nel quale la linea rossa traccia il confine invisibile oltre il quale si rischia la vita. Ancora un gesto carico di significato, quello di Francesco Abanghi, prima di lasciare la Repubblica Centrafricana, tappa decisiva del suo viaggio in Africa, dove il Papa ha anticipato l'apertura del Giubileo e alla quale non ha voluto rinunciare nonostante gli allarmi sicurezza. Appena arrivato, Francesco, accompagnato da 5 imam, si è fatto condurre davanti al Mihrab, il punto di maggiore devozione all'interno del luogo di culto, dove è rimasto alcuni minuti in preghiera. Poi il forte appello: cristiani e musulmani sono fratelli, devono comportarsi come tali, insieme diciamo no ad odio, violenza e vendetta in nome di una fede o di un Dio. Un appello ribadito poi ai cristiani durante la messa conclusiva, prima di ritornare a Roma. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso l'economia italiana con Renzi, che conferma i dati, dice l'Italia crescerà nella discussione sul PIL italiano, intervenuto da Parigi. Parla del clima per rassicurare sul PIL. Matteo Renzi interviene alla conferenza di Parigi, ma lo sguardo è rivolto a Roma dopo l'allarme sui conti pubblici lanciato dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Il premier assicura la crescita è quella prevista. E io credo e confermo che il PIL andrà a crescere, non a rallentare. E anche Padoan continua a ribadire che la crescita stimata per quest'anno resta allo 0,9% del PIL, malgrado gli attentati terroristici. In realtà però già i dati del terzo trimestre rilevavano una frenata, con una crescita allo 0,2% rispetto allo 0,3% di quello precedente, e a peggiorare anche un raffreddamento dell'inflazione allo 0,1% su base annua, meno 0,4% rispetto al mese precedente, attacca Renato Brunetta di Forza Italia. Padoan e Renzi in un mare di guai, stanno saltando i conti pubblici e la causa non è Parigi, non sono gli attentati, lo si sapeva già. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero, per parlare della dottoressa uccisa in Kenya, è stato arrestato anche il presunto mandante, che porta quindi a 4 il numero delle persone catturate nello Stato africano per l'omicidio della dottoressa Molisana Rita Fossaceca, lo ha riferito il portavoce della polizia locale. E poi, a proposito della polemica sulla scuola di Rozzano, tutto frainteso, così si difende il preside della scuola nel milanese, dove la festa di Natale è diventato un caso politico del quale poi torneremo a parlare. Intanto c'è un'altra storia che fa discutere un po' in questo senso. Sì a qualunque progetto in comune con la Chiesa per favorire i processi di integrazione, no alla visita pastorale dell'arcivescovo di Sassari nella scuola primaria di San Donato della città sarda. E la decisione assunta dal Consiglio dei docenti, questo storico istituto scolastico. E anche qui, insomma, si comincia a montare la polemica. Vi parlo anche brevemente del calendario Pirelli, perché è un'edizione molto inconsueta. Molti, evidentemente, magari non piacerà. È presentata a Londra questa nuova edizione. Sono 13 le donne presenti nelle foto, che hanno raggiunto i più importanti traguardi nella loro vita professionale, sociale, culturale, sportiva, artistica, fotografate dalla fotografa Annie Lebowitz. Foto prive di nudo, quindi qualcuno rimarrà deluso, che ritraggono però donne di età, provenienze e percorsi professionali molto diversi tra loro. Fra queste ci sono anche Yoko Ono, Patti Smith e Serena Williams. Volevo che le fotografie mostrassero le donne esattamente come sono, senza artifici, dice la fotografa. Per il calcio ci aggiorniamo dopo. Comunque, avete sentito prima, ci sono Napoli-Inter in campo e il Napoli per il momento il vantaggio di un gol. Prima di questa viabilità, magari qualche vostro messaggio dalla pagina Facebook di Effettonote, il 349-238-6666. Cristian dice: voi giornalisti per prima cosa dovreste iniziare a raccontare come stanno veramente le cose. Il preside pare non abbia annullato nessuna festa di Natale, ha solo negato il permesso a due mamme che volevano entrare nella scuola a insegnare alcuni canti religiosi. Matteo: al di là della vicenda e delle sue strumentalizzazioni, io voglio vivere in un paese laico, gradirei che politici e amministratori se ne fregassero delle faccende religiose e si occupassero di fare un po' meglio il loro mestiere. Poi ancora altri messaggi. Arminio da Bergamo: ma Salvini cosa c'entra con sentimenti cristiani? Anche il Papa lo ha detto, non salvinizziamoci. A dopo. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E rieccoci qua, ancora uno sguardo ai vostri messaggi che stanno arrivando, gli sms, il numero lo ripeto se avete acceso in questo momento 349-238-6666 e come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte che è sempre lì per voi. A proposito della polemica su Rozzano che continua a salire, Elena scrive: ho letto dalla lettera pubblicata direttamente dal preside che i canti natalizi non sono mai stati sospesi e gli ha solo vietato l'accesso a due mamme durante l'orario della mensa, le mamme volevano insegnare dei canti religiosi. Floriano scrive: per fortuna che la CGIL non rappresenta la maggioranza di italiani, anzi mi sembra in calo di consensi, perché poi ci sarà anche un esponente della CGIL, perché la CGIL ha detto che il preside ha fatto una scelta giusta. Cristiano: spero che prestissimo CGIL spenda qualche parola anche sui 32 milioni di tonnellate d'amianto non bonificate. Vabbè, non è che quando uno parla di un argomento non possa per forza debba parlare contemporaneamente anche di un altro. Paolo pubblica la lettera, dice a me Roberti pubblica la lettera di Parma e famola finita. Marco Parma si chiama il preside. Francesco: la giunta non ha altro da fare, troppa visibilità e strumentalizzazione della vicenda, cioè la giunta lombarda ha deciso di mettere un presepe in ogni sede della regione Lombardia. Voi continuate con i vostri messaggi, adesso vi ricordo le notizie più importanti. Obama vede Putin a margine della conferenza sul clima a Parigi, ora Assad deve andarsene, c'è accordo tra loro, mentre il presidente russo accusa Ankara, la Turchia, che di aver colpito il jet russo per un traffico illegale di petrolio con l'ISIS. I leader a Parigi per il clima, ne parleremo tra pochissimo. E poi all'Italia il record europeo di morti premature per lo smog, anche di questo ci occuperemo. Il Papa che torna a Roma, dice un errore scegliere, a proposito di Vatilix 2, Balda e Chauki. E poi nella moschea in Centrafrica dice basta violenza nel nome di Dio. La BCE che prepara misure di stimolo e Padoan che dice serve più inflazione, mentre Renzi dice il PIL italiano andrà a crescere. Natale, la polemica, Salvini: chi nega le nostre tradizioni è fuori di testa. Sassari: intanto è stata negata la visita al vescovo, non sono tutti cattolici bambini, dice la dirigente scolastica. Quindi è iniziata oggi a Parigi COP21, cioè l'attesissima conferenza internazionale sul clima delle Nazioni Unite, partita con l'arrivo di capi di Stato, di governo, quasi 150 paesi accolti dal presidente francese Hollande e dal segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, il quale ha esordito dicendo: lasciatemi parlare chiaro, l'esito degli accordi di Parigi dipende da voi, ha detto ai vari leader, si tratta del futuro dei vostri popoli, il futuro del nostro pianeta. E sulla portata storica di questo appuntamento sono tornati un po' tutti i protagonisti di questa prima giornata di lavori, questa conferenza durerà fino all'11 dicembre. Anche Obama ha detto: siamo l'ultima generazione in grado di invertire la rotta. Ma a parte, diciamo, le frasi retoriche un po' roboanti, Cristina Carpinelli, che per noi a Parigi, la nostra Cristina, si sta arrivando a qualcosa di concreto, anche se il primo giorno magari è presto. Ciao Cristina. Ciao Roberta. Sì, è abbastanza presto per dirlo, ma il clima che si respirava anche ieri, perché anche ieri, nonostante non ci fossero i capi di Stato, i negoziatori erano già al lavoro, quindi hanno tentato di recuperare un giorno in più per le trattative. Il clima, dicevo, è molto, molto buono, ottimista, quindi la sensazione, anche dai discorsi che sono stati fatti oggi, seppur pieni di retorica, come dicevi tu, la sensazione è che ci sia una linea condivisa, anche perché rispetto alle altre conferenze sul clima, questa di Parigi ha una marcia in più, nel senso che tutti i paesi che hanno partecipato hanno dovuto consegnare per tempo la lista di intenti, quindi la lista di promesse che avrebbero portato avanti per mantenere appunto sotto i 2 gradi la temperatura globale. Ora, quello che si farà è di fatto lavorare su questi intenti, quindi i negoziatori saranno al lavoro per cercare di capire chi ha proposto meno, chi ha proposto invece il giusto. Ad esempio la Russia, da quello che si sapeva già prima che iniziasse COP21, aveva proposto molto meno di quanto ci si aspettasse dalla Russia. È chiaro che questo è una notizia che probabilmente non possiamo verificare, anche perché i negoziatori lavorano proprio per modificare le cose via via, ci sono proprio dei delegati, ci sono i delegati dei ministeri dell'ambiente che lavorano, ci sono tavoli invece con esperti sempre collegati ai ministeri dell'ambiente, ci sono migliaia di persone che vengono da tutto il mondo qui a COP21, tra l'altro è un'esperienza bellissima perché ci sono anche molti giovani, ci sono giovani che vengono da tutto il mondo, quindi fermarsi a parlare con loro è veramente come fare un viaggio nel mondo. Senti, Cristina, e anche scusami se ti interrompo, no, a proposito di giovani, lo dico un po' scherzando naturalmente, sentiamo che cosa ha detto fra le varie cose il Presidente del Consiglio Renzi. Noi dobbiamo uscire dalla retorica per cui l'Italia non fa abbastanza. L'Italia dal 1990 ad oggi ha ridotto le emissioni del 23%. Quindi ha detto noi abbiamo fatto la nostra parte, continueremo, ma facciano qualcosa anche gli altri. E poi sentiamo anche che chiede insomma un accordo vincolante. È chiaro che deve essere un accordo il più vincolante possibile, altrimenti corre il rischio di essere un impegno scritto sulla sabbia. Io la dico così, noi siamo in una fase in cui l'Italia torna ad essere protagonista. E aggiunge: lavorare perché Parigi produca un accordo. Sono ottimista, ma è ancora lunga. Quindi è ancora lunga, Cristina. Lui è ottimista. È ancora lunga. E in effetti la sensazione che si ha è questa, cioè tutto può succedere, però di fatto un accordo ci sarà sicuramente. Bisogna capire se sarà un accordo vincolante, e questa è la cosa fondamentale, quindi che vincoli tutti i paesi a rispettarlo per questo accordo, perché questo è quello che è successo a Copenaghen, cioè c'è stato un finto accordo, poi però non è stato collegato a dei vincoli, e quindi alla fine tutto è rimasto un po' in coscienza di ciascuno Stato. Invece questa volta si vogliono porre dei vincoli, anche perché, ha spiegato Ban Ki-moon, bisogna garantire la pace e la sicurezza mondiale, perché in effetti mai come oggi riusciamo a capire, a toccare con mano ciò che ha provocato vivere al di sopra della disponibilità del nostro pianeta, perché migliaia di rifugiati sono in fuga da eventi climatici catastrofici, e anche molte guerre nel mondo sono determinate dai flussi migratori per accaparrarsi l'acqua e altre risorse, no? Sì, o anche in paesi incapaci di reggere questi flussi, questi ingressi, quindi si creano questi squilibri. Insomma, mai come oggi noi siamo proprio consapevoli, anzi, cioè proprio per dirla con le parole di Obama, il Presidente degli Stati Uniti ha usato questa frase secondo me molto bella, dice: noi siamo la prima generazione che vive direttamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma siamo anche l'ultima che potrà fare qualcosa. Cioè di fatto noi da Parigi dovremmo proprio uscire con un accordo, anche perché per alcuni studiosi è quasi già tardi, insomma. Infatti qualcuno scherzava dicendo se dovessero arrivare a un accordo è perché evidentemente siamo messi molto molto male e non possono più rimandare, no? Insomma, staremo a vedere. Cristina, ci aggiorniamo nei prossimi giorni allora. Ciao Cristina. Ciao Roberta. Ciao Cristina Carpinelli da Parigi. Europa 24 notte. E a proposito di clima, sempre a proposito di questo argomento, di cambiamenti climatici e soprattutto delle cause dei cambiamenti climatici, arriva il rapporto dell'Agenzia per l'Ambiente Europeo che dice una cosa molto preoccupante per noi. In Italia c'è il triste record rispetto a tutta l'Unione Europea di morti premature per inquinamento, 84.400 decessi nel 2012 su un totale in Europa di 491.000 a livello appunto europeo. L'area più colpita si conferma quella della pianura padana. Ne vorrei parlare con Francesco Forastiere, che è del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, coordinatore dello studio VIAS del Ministero della Salute. Forastiere, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Qui mi sembrano dati terribili. Come mai il nostro paese, che pare dovrebbe essere anche uno dei più attenti, Renzi ha appena detto noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso si facciano avanti anche gli altri. In effetti che l'Italia abbia fatto la sua parte sull'inquinamento atmosferico non è vero. Già con il progetto VIAS nel giugno scorso presso il Ministero della Salute sono stati presentati risultati abbastanza analoghi al rapporto dell'Agenzia Europea. Quindi il fatto che l'inquinamento atmosferico in Italia sia responsabile di decine e decine di migliaia di morti e di malattie è un elemento ormai scontato e ben saputo dalla letteratura scientifica e ben saputo anche dalle autorità governative, sia a livello nazionale che a livello regionale. Forastiere, lei mi scusi, è un fisso o un cellulare? È un cellulare. Un cellulare, stia il più possibile fermo, magari ci sono dei venti contrastanti, no, non lo so. No, comunque. Sono fermo. Forastiere, spero che non sia l'ozono, ecco. Però no. Molti si chiedono, ma come fanno a essere sicuri? Ce lo spieghi lei naturalmente a noi comuni. Ormai quello che sappiamo sull'inquinamento atmosferico è molto, sappiamo che gli effetti, una volta si pensava che gli effetti fossero solamente sull'apparato respiratorio, infatti. Quindi si pensava che l'inquinamento alla fine può far venire una bronchite cronica, può essere responsabile dell'asma o dell'aggravamento dell'asma, però questi sembravano essere gli effetti dell'inquinamento. In effetti si è capito via via che l'organo più colpito in realtà non era solamente l'apparato respiratorio, ma era il cuore, l'apparato cardiovascolare. E quindi si è visto che gli effetti sono soprattutto su un aumento degli episodi di infarto, soprattutto su un aumento di aritmie, di scompenso cardiaco. E questa è stata ovviamente una grande novità per la letteratura scientifica. Successivamente si è capito anche che l'inquinamento è un effetto anche sulle malattie neurologiche, si parla oggi in relazione con la demenza e il Parkinson. Quindi con e sicuramente si è capito anche un effetto sull'apparato riproduttivo. Oggi a causa dell'inquinamento i bambini nascono prima. È ovvio che si tratta di effetti piccoli, però questi effetti piccoli sull'intera popolazione significano effetti sanitari rilevanti. Sì, pare veramente sconfortante. Leggevo tra l'altro che sulle polveri sottili emesse anche dalla combustione delle biomasse condividiamo la prima posizione con la Germania. Siamo primi per morti premature, su questo anche la Germania ci affianca. Sì, purtroppo le cause in Italia ovviamente al primo posto sono i veicoli diesel. Quindi più il trasporto che non l'industria. Il trasporto e i veicoli diesel sono l'obiettivo numero uno. Al secondo posto, purtroppo in Italia si è diffusa l'abitudine di utilizzare per il riscaldamento domestico la legna e il pellet come nuova tecnologia, sì. Ma questa nuova tecnologia è vero che risparmia CO2 per il cambiamento climatico, ma emette in aria una grande quantità di particelle di fumi neri che a loro volta invece aggravano il cambiamento climatico. Quindi il pellet non è una buona cosa, sta dicendo. No, assolutamente. E il problema più grosso è che le caldaie a pellet non hanno regolamentazione, si stanno diffondendo in maniera impressionante e queste nel futuro saranno un problema molto grande. Grazie Francesco Forastiere. Grazie, buona serata. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ancora prima di lasciarci brevemente per questa pausa di ricreazione donata sulla pagina Facebook di Effetto Notte, scrive: questa è la nostra cultura, a proposito sempre della polemica sul Natale, sulla scuola di Rozzano. Non esiste negarla, Michele Serra ha scritto una perfetta amaca a riguardo. Giuseppe scrive: ma quale solidarietà al preside che vada a lavorare nei paesi islamici dove se si costruisce una chiesa la bruciano, noi invece ci costruiamo loro moschee. Vorrei sapere cosa pensa la CGIL del Ramadan, favorevole o contraria. Beh, in quel caso insomma, se non mi pare che ci siano evidentemente diciamo che la differenza probabilmente, Giuseppe, è che noi vogliamo essere aperti e laici nel senso anche di rispetto del prossimo, delle differenze, e c'è invece chi è integralista o ha delle religioni più rigide. Poi bisogna scegliere che cosa si vuole fare. Angela dice: libera scuola, tra parentesi laica e libero Stato, questo pensiamo. Continuate sulla pagina Facebook oppure al 349-238 con gli sms e ritorno tra poco. Debora, ti piacciono ancora le favole? Mi piacciono, sì, soprattutto adesso che è quasi Natale, ne stiamo scrivendo una insieme. Io, te, i nostri ascoltatori e Andrea Vitali. Eh sì, sino alla vigilia di Natale daremo vita a una grande favola collettiva. Ogni giorno, all'interno di Cuore e Denari, io darò un incipit nuovo e i nostri ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. Il migliore verrà poi letto in trasmissione e riceverà il nostro libro Secondo Canto di Natale. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ritorniamo insieme, sempre Roberto Giordano con voi fino alle 22. Vedevo i vostri messaggi ancora tra gli sms al 349-238-6666, quelli sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito sempre della polemica sulla scuola di Rozzano, sul preside in particolare. Nino scrive: la scuola e la religione appartengono a mondi che sarebbe opportuno tenere distinti, colloquianti ma separati. Ci ho detto, il problema è l'informazione pelosa, dice Nino. E poi invece Loredana Margot di Comacchio si firma: buonasera Roberta, siamo vicini al Santo Natale, sapessi come mi dispiace di tutte queste polemiche, cosa c'è di più bello di vedere tutti i bambini insieme cantare le belle canzoni di Natale. Buon Natale a tutti, dice Loredana. Buon Natale a te. Tra poco ne parleremo, adesso vi ricordo, se avete acceso la radio adesso invece che puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. La conferenza delle Nazioni Unite sul clima, i leader del mondo a Parigi, Obama dice possiamo cambiare il futuro qui adesso e Renzi sottolinea l'Italia fa la sua parte. Inquinamento, all'Italia il record europeo di morti premature per lo smog e per l'amianto, emergenza nazionale, 85 anni per ripulire il bel paese. Il faccia a faccia tra Obama e Putin, i due leader si dicono d'accordo sull'avvio di una soluzione politica in Siria. Sempre alta la tensione tra Russia e Turchia, Putin accusa Ankara, ha colpito il jet per il traffico illegale di petrolio dall'ISIS alla Turchia, Erdogan replica, se è vero pronto a dimettermi. Vatilix 2, il Papa di ritorno dall'Africa dice una vicenda che non mi ha tolto il sonno, ma è stato un errore scegliere Balda e Shawki. La polemica sul Natale, di cui ancora parleremo tra poco, la dottoressa uccisa in Kenya, la polizia ha arrestato anche il mandante, 4 in manette, tra loro anche i lavoratori della casa. La rivoluzione del nuovo calendario Pirelli, da Yoko Ono a Patti Smith, donne vere, età media 50 anni, segni particolari successo. Per il calcio ci sono in campo Napoli-Inter e Napoli conduce sempre per 1-0. Ritorniamo su questa polemica che continua ad andare avanti. Oggi Salvini, Gelmini di Forza Italia e altri erano davanti alla scuola di Rozzano per consegnare, per regalare alcuni piccoli presepi in polemica. Poi è arrivata la notizia verso sera, tardo pomeriggio, della Regione Lombardia che ha deciso di mettere un presepe per ogni sede della Regione. E quindi la polemica monta anche perché c'è questo nuovo fatto di una scuola di Sassari che ha deciso il Consiglio dei Docenti di dire no alla visita pastorale del Vescovo a scuola, che si era proposto di andare a scuola a trovare i piccoli allievi, ma dicono comunque sì a qualsiasi progetto in comune con la diocesi per favorire nei quartieri i processi di integrazione e di inclusione. Prima di salutare i due ospiti vorrei far sentire come ha spiegato la vicenda Marco Parma, cioè il preside dell'Istituto Garofani di Rozzano nel Milanese. Sono venuti in presidenza, due mamme a trovarmi chiedendomi di poter venire a scuola nell'intervallo pranzo a insegnare ai bambini dei canti religiosi. A questo io ho opposto un diniego. Ho detto di no perché se poi nelle feste di classe una parte dei bambini avesse cantato delle canzoni dalle quali gli altri sarebbero stati esclusi, forse non sarebbe stato il massimo. Poi sentiremo anche magari la dirigente della scuola di Sassari, però intanto saluto Domenico Pantaleo, segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL. Buonasera Pantaleo. Buonasera a voi. E Nicola Molteni, deputato della Lega Nord. Buonasera onorevole Molteni. Buonasera a voi. Quindi avete sentito le spiegazioni del preside. E Domenico Pantaleo, mi pare che la CGIL si sia espressa a favore della scelta del preside nei giorni scorsi. Facendo una polemica inutile e anche strumentale, perché in realtà non è intanto una decisione assunta solo dal preside, ma è una decisione assunta dal consiglio d'istituto, dai genitori, dal collegio dei docenti, che hanno deciso di programmare all'interno dell'offerta didattica della scuola due momenti: la festa del Natale, che si terrà il 21, è un concerto natalizio aperto a tutti i bambini. Dopodiché ci sono state queste due mamme che pretendevano dal dirigente scolastico di insegnare due canti religiosi sul Natale. Il dirigente scolastico, sulla base sostanzialmente delle decisioni assunte dagli organi collegiali, ha dato la sua netta contrarietà per evitare che bambini di altre religioni fossero esclusi. Ma la cosa più scandalosa è che tutti adesso affrontano questo tema e non si rendono conto che stiamo parlando di una scuola di frontiera, dove la scuola cade a pezzi, dove ci sono i topi, dove sostanzialmente i ladri hanno rubato tutta questa scuola, e di questo non si occupa nessuno. Adesso tutta la discussione è appunto su questa storia qui, che si è trasformata in un'operazione puramente politica e propagandistica. Peraltro voglio ricordare che la maggior parte dei docenti e dei genitori è a favore oggi delle decisioni assunte dal dirigente scolastico. Dico, diciamo, anche questo dovrebbe essere un elemento di riflessione, indipendentemente dal tipo di religione, dal tipo di cultura. Sentiamo cosa ne pensa l'onorevole Molteni. Grazie Pantaleo. Ma Molteni, guarda, io non vedo strumentalizzazioni politiche, vedo delle polemiche a seguito di una manifesta incapacità da parte del dirigente scolastico di gestire questa situazione che la si sarebbe tranquillamente potuta gestire con buon senso. E quindi un dirigente, cioè, lei come l'avrebbe gestita, Molteni? Ma io francamente avrei acconsentito al fatto che vi fossero questi canti, anche perché qui non stiamo difendendo, il problema non sono i simboli religiosi, il nostro è uno Stato laico, anche se a vocazione ovviamente cattolica cristiana. Qui ci sono dei simboli, come può ad esempio essere il crocifisso, come può ad esempio essere il presepe o il canto di Natale o la medesima festa del Natale, che sono simboli che rappresentano una cultura, che rappresentano una civiltà, che rappresentano un senso di appartenenza a un modello culturale. E quindi io credo che difendere questi simboli, difendere questi elementi anche laici, significa difendere un modo di essere e quindi difendere la civiltà e la cultura del nostro paese, in modo particolare in un momento come questo di particolari tensioni legati agli attentati di Parigi. Non è facendo un passo indietro, non è cedendo rispetto alla difesa dei nostri valori che si fa integrazione. Lo ricordo al dirigente sindacale che integrazione significa rispettare le regole, rispettare diritti e doveri e soprattutto cultura e appartenenza a un popolo. Per cui io francamente, nel momento in cui viene ristabilito quello che avviene o che dovrebbe accadere in tutte le scuole italiane, cioè festeggiare come giusto che sia il Natale, il problema vero poi è quello che ha denunciato oggi Matteo Salvini, ovvero che quella scuola sta cadendo a pezzi. Quella scuola ha bagni da terzo mondo, ha soffitto che cade. E come mai nessuno se ne è occupato condizioni... prima, diceva anche questo il problema vero, visto che c'è qualcuno al governo che sta sbandierando questa in modo pomposo questa buona scuola, quella scuola lì è esattamente la negazione di una buona scuola, perché una scuola è buona nel momento in cui consente agli studenti di studiare tranquillamente, educazione e insegnamento in condizioni di normalità. Le leggo un messaggio di una ascoltatrice molto polemica, si chiama Clotilde, e dice: mi mandano i pazzi i vari Salvini e Gelmini, vorrei sapere cosa sanno dei cosiddetti valori giudaico-cristiani, sono divorziati, magari non entrano mai in chiesa da anni in quanto a catechesi zero, cosa sono disposti a fare per un voto in più, seminano odio, che squallore, dice Clotilde, eccetera. Nel senso, qualcuno dice: ma i valori sono soltanto nel presepe, i valori cristiani sono soltanto cantare le canzoni o sono altri? No, ad esempio sono nel difendere la famiglia naturale fondata sul matrimonio, e questa è una battaglia politica che appartiene da sempre alla Lega, però io voglio ribadire il fatto che difendere il crocifisso, c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato del 2006, difendere il crocifisso, prevedere il crocifisso all'interno degli edifici pubblici, all'interno delle aule scolastiche, non è difendere esclusivamente un simbolo religioso, e ripeto, noi siamo in uno Stato laico che prevede la libertà di culto sancita dalla Carta Costituzionale, ma significa difendere dei valori, significa difendere una cultura, un senso di appartenenza, un'identità, una tradizione, una storia, che io credo sia assolutamente necessario e fondamentale in questo momento in cui il mondo occidentale, la società occidentale è sotto attacco da parte del terrorismo islamico, avere la consapevolezza di quello che siamo affinché i nostri figli possano anche loro avere questa consapevolezza e questo senso di appartenenza ad una cultura che è la cultura. Anche se Molteni, non tutti gli italiani, pur sentendosi molto italiani, sono cattolici o sono eterosessuali, però volevo sentire in questo pantaleo. C'è la libertà di culto e giustamente viene riconosciuta nel nostro paese. Nella scuola c'è l'ora di religione, ma non è obbligatoria, nel senso che quei ragazzi che non vogliono sottostare all'ora di religione possono tranquillamente fare altro. E questo è il simbolo di uno Stato laico a vocazione cattolica. Ho ancora 40 secondi per Pantaleo, visto che Molteni ha lasciato parlare un po' di più. Pantaleo, una sua... Ma io voglio difendere la scuola della convivenza, sì, dell'accoglienza. Voglio ricordare che oggi il 9% degli alunni è figlia di immigrati. Io penso che deve essere una scuola che deve garantire a tutti la libera espressione culturale, religiosa, sessuale, insomma una scuola che diventa oppressione delle proprie idee è una scuola che non c'entra niente con la scuola della Repubblica e della scuola della Costituzione. Credo che questa vicenda di Milano insegna anche porta anche alla necessità in qualche maniera di difendere questi grandi valori. Siete stati chiarissimi. Grazie Domenico Pantaleo, grazie onorevole Nicola Molteni. Grazie. Buona continuazione. Buonasera. Grazie. Viabilità. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme. È anche il caso di parlare adesso, di uscire un po' da questo argomento, mentre voi potete continuare naturalmente a commentarlo, questo delle polemiche sulla decisione della scuola di Rozzano. Avete sentito sia il rappresentante della CGIL che difendeva la scelta del preside, sia un esponente della Lega Molteni che invece ribadiva certe cose anche sottolineate da Salvini. Però prima vorrei anche, vediamo se la riprendo, la dirigente della scuola di Sassari, si chiama Patrizia Mercuri, perché oggi si è aperto questo nuovo caso di una scuola di Sassari, la scuola primaria San Donato, che ha detto all'arcivescovo che voleva andare lì a incontrare i bambini, dice no, vediamo, magari troviamo anche un progetto in comune con la diocesi per favorire nei quartieri i processi di integrazione e di inclusione, però troviamoci in chiesa i bambini che vogliono andare in chiesa, non il vescovo che viene a scuola. Sentiamola. Avrebbe potuto in qualche modo forse rompere degli equilibri che si sta molto faticosamente cercando di creare nel nostro contesto. Sono degli equilibri estremamente fragili, estremamente delicati. Ci comporteremo certamente così anche in altre situazioni analoghe con esponenti di altre religioni. E questo, insomma, per completare il quadro per il momento, vedremo poi che strascichi ulteriori ci saranno. Adesso però cambiamo per qualche attimo argomento, e perché ormai conto alla rovescia per l'apertura della stagione della Scala a Milano, oggi svelata. La Giovanna d'Arco di Verdi torna alla Scala di Milano dopo 150 anni, rivisitata in forma onirica da quello che si preannuncia essere uno spettacolare allestimento diretto da Riccardo Chailly al suo primo Sant'Ambrogio, con la regia di Moshe Leiser e Patrice Curie. La stagione d'opera apre i battenti come da tradizione il 7 dicembre ed è inevitabile nella sua casualità che dall'eroina francese il pensiero corra ai tragici fatti di Parigi, alle conseguenze sull'allarme sicurezza che nei giorni scorsi ha visto proprio la Scala di Milano, insieme ad altri obiettivi considerati sensibili, al centro del dibattito sulle misure da adottare in occasione di un evento della portata mediatica fortissima. Una scelta mirata, quella di presentare lo spettacolo solo dal punto di vista artistico, inevitabile però coinvolgere nello specifico anche Alexander Pereira, sovrintendente e direttore artistico della Scala. Mi sento tranquillo, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare per aumentare la sicurezza. Mi sembra abbastanza difficile adesso attaccare la Scala e io credo che tutti possono venire tranquillamente. Lara Vecchio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. Intanto voi ritornate ancora sull'argomento. Svaldo da Milano al 349-238-6666 scrive: attenti a laicizzare tutto, l'uomo si compone anche di spiritualità, privare i più piccoli di un insegnamento religioso può aprire la porta in seguito a fondamentalismi e sette varie. Dipende, qualcuno pensa che sia il contrario. Comunque Marco dice: la Lega si erge a paladina dei valori cristiani solo quando vi fa comodo. Ricordo la polemica contro il Papa quando parlava di accoglienza e migranti, scrive Marco. Voi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte, mentre io do la parola a Dario Ricci che sta seguendo Inter-Napoli, o meglio Napoli-Inter, è vero Dario? Si gioca a San Paolo. Roberto, certo. È appena finito il primo tempo, Napoli in vantaggio di un gol, quello che vi abbiamo raccontato praticamente in diretta al primo minuto, la rete di Gonzalo Higuaín, ma in vantaggio anche di un uomo, perché al 43esimo è stato espulso il difensore dell'Inter Nagatomo per doppia ammonizione, netto il fallo del terzino giapponese su Haaland, e inevitabile il secondo giallo e quindi l'espulsione da parte dell'arbitro Orsato, espulsione che però ha fatto infuriare Mancini, che fino a pochi istanti fa stava protestando al rientro negli spogliatoi proprio con l'arbitro. E dire che l'Inter, pochi istanti prima di ritrovarsi in inferiorità numerica al 41esimo, era andata vicinissima al pareggio con il cross dalla destra di Ljajic, la deviazione di destro a centro area di Perisic, che però ha colpito male il pallone e l'ha praticamente svirgolato e mandato al lato della porta partenopea. Veramente un'occasionissima per un Napoli invece che da parte sua ha pienamente meritato il vantaggio, soprattutto nella parte iniziale della partita, anche con Calleon al settimo minuto ha sfiorato il raddoppio. Comunque dopo 45 minuti di gioco Napoli in vantaggio per 1-0, decide il capocannoniere del torneo Gonzalo Higuaín, che è arrivato questa sera finora a quota 11. Vedo Dario Ricci: Messi, Ronaldo, Neymar, Tris Dassi per il pallone d'oro? Ma di solito quelli che si giocano quella sfera dorata proprio scarsi non sono, Roberta. Diciamo che sarà ancora una volta sfida Barcellona-Real Madrid, perché Messi e Neymar sono due dei tre, forse anche ce n'è anche proprio qualcuno in più, ma almeno dei tre fenomeni più noti del Barcellona. Cristiano Ronaldo è il detentore ed è chiaramente emblema del Real Madrid. Sarà ipotizzato anche che potesse essere un pallone d'oro tutto blaugrana, perché certo anche quel Suarez, che se non avesse quel vizio di mordicchiare ogni tanto gli avversari, sì, abbastanza affamato e draculesco nei modi, però è un giocatore sopraffino e di solito fa sempre gol anche alle italiane, sia la Juventus che la Roma. E tenga a bada i denti, mi raccomando. Ecco, tenga a bada i denti, ma con quei piedi, certo, è altrettanto pericoloso, direi. Grazie, Dario Ricci. Grazie a te. Ciao, Dario. E prima di lasciarci, per poi ritrovarci alle 22, vi dico che il primo ministro britannico Cameron ha annunciato che riunirà il Parlamento dopodomani per discutere, quindi votare sui raid aerei da parte della Gran Bretagna in Siria contro lo Stato Islamico.